fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo in diretta radio, radio web, Convento Lonato, in compagnia del nostro mitico Flo, grande Flo! Sì! Grande, grande. Flo, parla vicino al microfono, bello così, bravo. Grazie, allora, grazie. Presentami il gruppo qua, dimmi. Guarda, siamo una festa stasera, siamo a posto del convento, salutare tutti. E sono i miei amici, molti amici. Sai. Amici, colleghi, cos'è? Chi sono? Sì, sì, sì. Sono amici? Sì, sì, sì, colleghi. Amici, colleghi, però ho visto la moglie, mio amico, che l'ho visto crescere. Ah, lei. Famiglia che non è qua, la figlia dell'amico. Esatto. Ok, come ti chiami, figlia dell'amico? Sono Anca. Sono Anca? Sì. Anca? Sì. Anca. Anca. Lui è Anca. È Anca. Sì, sì, sì, sì, sì. È Anca. Sì, è Anca. Eh sì, è. E l'altro? È l'altro? No, il marito, è il marito. Ah, il marito? Di Anca? Esatto. Sì, esatto. Ah, e come si chiama? John. John. John. L'intruso. Come l'intruso? Stasera non doveva esserci John. Invece sì. John è venuto a sorvegliare, giustamente. Dice, sì. Ma avete fatto una cena, avete fatto casino, cosa avete fatto? Abbiamo fatto cena, pizza, tutto quanto. Stasera è una serata libera. Sì. Abbiamo fatto la cena a casa, dopo ci ha convinti a venire qua. Con la forza? Sì. Perché la convento la serata, che deve essere la serata giusta. Bravo, bravo. Però... Flo. E quindi è la prima volta che venite al convento? No, io ci sono già stata. Sei già stata anche? Sì. Ma veramente io sarà la seconda volta. Fammi due conti, sarà 13 anni. Sì, vabbè, dai, è venuto poche volte Flo qua. Tra l'altro è il primo caso al mondo di cioè butta fuori che bisogna cioè tenere calmo, perché sennò praticamente si è auto butta fuori stasera, cioè è scatenato e quindi ti tocca auto buttarti fuori. Stasera sì, sarà lungo che era da fare, però dai. Stasera sei in festa, sei allegro. Tanto ricordiamo che prima hai salutato fuori dalla radio. Nadia, si è sentito un rimbombo. Nadia, lo voglio salutare in modi giusti, però. Vorrei salutarla nei modi giusti. E quindi praticamente ha sbattuto la testa contro il vetro, però. Fai. È un po' stanco. 60, 80, però bene. Dai. Voi lo capite, Flo, ragazzi? Io. No. No, no. Un po' fatica, dai. Si fa un po' stanco. Si è un po' stanco, infatti parla un po' a rallenti. Una versione. Aspetta un attimo. Che fai? Fammi due conti. Che fai i conti adesso? Sì, non so quanti butti lì, però vabbè, dai. Dai, cos'è che stai facendo, ci sta, i conti? Ci sta. Ma cos'è che sta contando? Tu fai i conti in banca la mattina, la mattina. Ma scusa, Anca, che conti sta facendo? Non lo so, sto parlando da solo. Parla da solo, tra l'altro. È bellissimo, no? Se mia figlia mi vede, Santerino, non ti vede, sei in radio? No, sono in giardino. Ah, sono in giardino i tuoi figli? Sì. Perfetto. Giulia, venite qua, faccio io vedere. Cosa fai, li stai chiamando? Attenzione che c'è il butto fuori, Flo, è passato Luca in questo momento. Luca? No, è passato. Luca, è andato. Saluto, no, è andato, non ti sente. Flo, parla al microfono. No, io non parlo al microfono. Ah, dai il microfono. Ok, ricordiamo che Flo è un donatore, giusto? Anche, ma dove sei capitata? Cioè, non lo so. Non lo sai. Uno? Per Flo dice che sono il numero uno in questo momento. Esatto. Ecco, potrà scegliere una varietà a 5 dita, ne ha scelta una in mezzo, tra l'altro. Bravo, grazie Flo. Per te un amore. Ecco, Anca, ma dimmi un po', tu che conosci Flo ormai da quanti anni? Da quando sono nata. Ecco, cos'è che ti piace di Flo come persona, sempre ovviamente? Beh, basta guardarlo. Basta guardarlo, non riesco a trovare qualcosa che a mi piace. A quest'ora però non lo so, a quest'ora non... Quindi Flo, per le persone che non lo conoscono, è un bell'uomo? Sì, assolutamente, soprattutto per l'età che... Per l'età che non la dimostra. Esatto. Assolutamente, i suoi 79 anni li porta benissimo. Mi piace perché nonostante sia un po' vecchiotto, dentro è giovane. Attento. Perfetto, riuscito a prendere, a battere 5 proprio in maniera disinvolta. Ok, chiediamo anche a tuo marito, no? Cosa ti piace di Flo? Al microfono, tutto? tutto. A tutto, proprio, proprio. Tra l'altro è piegato in una posizione pericolosa, eh. Stai attento che Flo se sente che, cioè insomma, è pericoloso. La posizione non è sono come suo figlio. Ah, sei come suo. Perché ti prende per i capelli in questo momento? Perché io sono un figlio. Li vuoi bene, li vuoi bene, li vuoi bene. Eh sì, sono. Soprattutto a quest'ora. Soprattutto a quest'ora. Capisce che era 30. Che ora sono? Che ore sono? Sono le 2:27, Flo. Eh sì. Mattina, è mattina, sì, giusto, quindi dopo è giusto. Due o tre bottiglie di di acqua minerale, giusto. Ma due o tre bottiglie, neanche bicchieri. 35 birrette. Ecco, ricordiamo che fa parecchio caldo, quindi la siccità Flo stimola, così per bere un po' di birra, giusto. C'è una gnocca che ci saluta, ecco. Saluta anche Flo, così saluta tutti, ecco. Ciao. Ciao, ecco, così. Se vuoi entrare a farmi un lavoretto. Ricordiamo che sì, giustamente lei è specializzata in elettricità, esatto. Infatti è l'elettricista la ragazza, quindi addetta ai lavoretti qua. Ecco, bella radio, ecco. Attenzione, no Flo, dove vai? Stai qui, aspetta, stai andando via. Ah, rimani che insomma. Quindi niente, non possiamo dire niente di solo cose belle su Flo? Sì, assolutamente. Assolutamente, brava. No, scusami un attimo, tu cosa vuoi dire di Flo? No, io Flo lo conosco da 13 anni. Tu cos'hai da dire su di lui? Sì, ho passato con lui 13 anni della mia vita, ecco, vedete il risultato, come sono diventato. Grazie a lui. Grazie a lui, tra l'altro. Sempre più giovane. Proprio una cosa... Devo Flo, così, cosa dire, questa mia... È il mio amore, l'amore della mia vita. Di, che, Sandrino, devo dai, dire, devo confessarlo? Sono sempre stato attratto da Flo. Ecco. E mi piace il suo modo, quando dice che non dice la doppia. Sapete che Flo non dice la doppia, no? Giusto? Cappellino giallo. Non c'è la doppia. manca la doppia, infatti. A me fa impazzire quando parla senza la doppia. Bellissimo. Bellissimo. Di cappellino giallo. Dai. No, è la... al microfono però. Dai, al microfono, cosa fai? Dove sta andando? Devi solo dirlo? Dai. Sandrino, lunedì mattina mi troverai alle 8 di mattina, alle 9, che voi banchieri iniziate alle 9 di mattina. Ha deciso lui. Cioè, vuol dire che sfonderò il tuo vetro. Ah già, col camion, ecco, ricordiamo, tra l'altro, nessuno capirà che sei tu, Flo. Ciabatte, draghi azzurre. Ah già, è vero, la divisa di Flo. Corregge. È vero. Cosa c'hai? Un attimo. C'è il butto fuori. Lo so. Allora, ricordiamo il look, perché voi ragazzi non lo sapete, ma Flo ha un look particolare quando guida il camion. L'avete mai visto? No. È quello che diceva prima, quindi ripetilo. Ciabatte, draghe azzurre. Canottiera bianca sporca di sugo. Mutanda incollata alle chiappe, causa troppe ore di guida. Esatto. Ecco. Questa è un po' lì. Non me ne frega niente, ma ti inculo roba. Ok, grazie. Ecco, ricordiamo che siamo in diretta, Flo. Fantastico, mi piace che. Non si dicono le parole. Brava, Anca, sgridalo. Lo ricordiamo. Anca, puoi sculacciarmi, Flo, per favore? Ecco, attenzione. Ecco, una sculacciata, Flo, in diretta, ci stava. Perfetto. Flo, vuoi salutare qualcuno? Vuoi approfittare, Flo? Salutare. Sì, sono stato al momento. Voglio salutare loro, Ivana, Gabriele. Sì, bravo. Anzi, Sandrino, che è un bel figo. Ah, sono io Sandrino, mi piacerebbe. No, basta. Ti conosco tutti quanti, tutti i tuoi colleghi che ti vogliono tanto bene. Anche io voglio. È vero, dai, li vogliamo tutti bene a Flo, vero? Vero anche, vero? Sì. Come si fa a non voler bene a Flo? Sì, è un tenerone, Va bene, dai, chiudiamo qui? Sì. Ok? Chiudiamo tutti quanti. Andiamo a divertirci. Andiamo a ballare. Ancora saluti da John, da Flo, Anca e Anca e Sandrino. Ciao.